GR24, il sole 24 ore. Governa il lavoro sul piano crescita, ma è scontro per il nuovo vertice di Banca Italia. Casini e Bersani preoccupati. A governo le critiche dei costruttori, una presa in giro, un piano sviluppo a costo zero. Il CDA Rai approva il nuovo giro di nomine di Bella a Rai 3, Masi al TG2. Ancora nessun accordo per il nuovo governo libico diviso su petrolio e Islam. Gheddafi sarebbe protetto dai Tuareg. Buona giornata dalla redazione di GR24, un saluto da Enrico Pagliarini. Il governo è al lavoro sul decreto sviluppo e al Ministero dell'Economia si è tenuto un incontro con i rappresentanti di banche e imprese. Intanto si sta consumando uno scontro per la successione al vertice di Banca Italia. Facciamo il punto in diretta con Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno, è un percorso ad ostacoli, quello del governo verso il varo del provvedimento per lo sviluppo, un tragitto fatto di accelerazioni e di brusche frenate. Da una parte il clima di disgelo tra Berlusconi e Tremonti, con l'obiettivo di arrivare ad un decreto per la crescita in 2 settimane, dall'altra il no della Lega a mettere mano alle pensioni di anzianità e il braccio di ferro tra Tesoro e Palazzo Chigi sul futuro governatore della Banca d'Italia. Quanto al rilancio dell'economia, questa mattina si è tenuto in via 20 settembre un nuovo incontro tra i ministri economici, Tremonti, Sacconi, Romani, vi erano anche Gianni Letta e Calderoli e i rappresentanti degli industriali e delle banche. Obiettivo numero uno del governo, una nuova stagione di grandi opere, linfa fresca dunque per le infrastrutture attraverso il meccanismo di detassazione per le imprese. Domani sarà la volta di un seminario sulle dismissioni, parteciperà anche il Presidente del Consiglio. Ma è la grana Banca d'Italia a dividere oggi la maggioranza, con Berlusconi che rinnova la sua fiducia all'attuale direttore generale di Palazzo Koch Saccomanni, nome questo gradito al Quirinale e allo stesso Draghi. Dall'altra parte ambienti del centro destra guidati da Tremonti, molto più propensi invece per il direttore generale del Tesoro, Grilli. Resta alla finestra la Banca Centrale Europea, timorosa secondo indiscrezioni che venga garantita comunque l'indipendenza della Banca d'Italia dal potere politico. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Dai costruttori edili arriva intanto una netta critica al governo. L'assunto che sia possibile un'infrastrutturazione generatrice di sviluppo a costo zero o è una chimera o è una presa in giro, dice Paolo Buzzetti, il presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, in occasione dell'assemblea in corso a Roma. Non è tollerabile sopportare il non ascolto e naturalmente io non voglio che l'industria delle costruzioni, la grande, la media e la piccola, abbiano il ruolo nel paese che meritano. Dobbiamo trovare le giuste soluzioni, però è venuto il momento. Il tempo, per quel che mi riguarda e per riguarda l'associazione che rappresento, me e i nostri vicepresidenti, è scaduto. Facciamo sul serio, non vogliamo entrare in mezzo alla politica, noi siamo nella dichiarazione di Confindustria completamente, non sto mezzo millimetro differente da quella, però guardate che questo decreto sviluppo è l'ultimo elemento che diamo di credibilità su queste cose. A seguire i lavori dell'Assemblea c'è Alessandra Schepisi che ci fa il punto sulla situazione del settore. Buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno dall'Assemblea del Lancio. Come abbiamo sentito sono arrivate parole molto dure sul decreto sviluppo, ma il Presidente Buzzetti ha anche lanciato un grido d'allarme sulla situazione, a suo dire molto critica, di un settore, quello dell'edilizia, che ha perso dall'inizio della crisi 350.000 occupati, che in 5 anni, dal 2008 al 2012, avrà perduto il 22,3% in termini reali, riportandosi ai livelli di produzione del 94, dati ai quali si aggiungono quelli diffusi poco fa dall'Istat. L'indice della produzione nelle costruzioni a luglio è diminuito dell'1,2% rispetto a giugno, mentre nei primi 7 mesi dell'anno si registra un calo della produzione del 2% tendenziale. Proprio in questo momento ha concluso il suo intervento il ministro delle infrastrutture Matteoli, chiamato a dare delle risposte alle richieste dei costruttori di un rilancio del settore. Matteoli ha però detto che non ci sono risorse, si punterà alla defiscalizzazione. Ministro che è stato duramente contestato dalla platea, molti esponenti del Lancio lo hanno prima fischiato, poi hanno dato vergogna e infine hanno abbandonato la sala. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi, buon lavoro. E ci sono dati Istat sull'occupazione delle imprese in generale. A luglio l'occupazione nelle grandi imprese diminuisce rispetto a giugno dello 0,1% al lordo dei dipendenti in cassa integrazione e dello 0,5% al netto dei dipendenti in cassa integrazione. Nel confronto con luglio 2010, quindi anno su anno, l'occupazione nelle grandi imprese scende dello 0,7% sia al lordo sia al netto dei dipendenti in cassa integrazione. via libera al pacchetto di nomine dal Consiglio d'amministrazione RAI. Le direzioni di RAI 3, TG2, RAI e GR Parlamento, RAI Gold, sono passate a maggioranza. Antonio Di Bella diventa direttore di RAI 3 e Marcello Masi del TG2. Ora parliamo della sfiducia chiesta dalle opposizioni alla Camera sul ministro Romano. Oggi pomeriggio in diretta Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, sì, Saverio Romano prenderà oggi pomeriggio la parola alla Camera per difendersi dalla richiesta di sfiducia dell'opposizione. Ascolterò, dice il ministro delle politiche agricole, e poi dirò due cose su di me, c'è molta confusione e disinformazione. Il voto è previsto per le 16, non ci dovrebbero essere sorprese per la maggioranza e per il governo dopo il no della Lega alla sfiducia. Ma sentiamo Fabrizio Cicchitto, capogruppo PDL. Faccio presente che l'opposizione più volte sta presentando mozioni di sfiducia su singoli ministri, che è un modo per appesantire i lavori parlamentari e per radicalizzare sempre più le opposte posizioni. Per quello che ci riguarda, noi siamo impegnati a respingere, perché la consideriamo del tutto pretestuosa, la mozione di sfiducia, e ci auguriamo che ci sia il consenso necessario della Camera. Ma l'opposizione attacca il ministro in odore di mafia. Secondo la procura di Palermo il voto sarà palese. Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori ha una sua teoria. Allora sentiamola. Oggi in Parlamento ci sarà un voto di scambio, il classico modo di comportarsi di chi è accusato di reato di mafia. Ti garantisco il voto per la sopravvivenza di questo governo mio e dei miei amici, in cambio garantisci la mia presenza al governo anche se sono accusati di fatti gravi di mafia. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Bene, grazie ad Elisabetta Fiorito. Naturalmente seguiremo nel pomeriggio anche le votazioni alla Camera. Adesso la pagina economica, subito uno sguardo ai mercati con Deborah Rosciani in diretta. Buongiorno. Buongiorno, è stata una mattinata all'insegna del nervosismo per le borse europee, che stanno continuando ad oscillare sopra e sotto la parità dopo il rally delle ultime tre sedute. Ricordiamo che Milano è reduce da un balzo di oltre il 9% dalla chiusura del 22 settembre. In questo momento Milano segna un rialzo dello 0,51, i listini erano però partiti male sulla scia di un orientamento alle prese di beneficio per gli investitori, sono arrivati a perdere oltre un punto abbondante su tutte le piazze e adesso invece la direzione è completamente opposta. Modesta la performance di Londra, più 0,11%, Francoforte più 0,95%, Parigi più 0,65% e come dicevamo Milano guadagna lo 0,51%. I riflettori oggi, e in qualche maniera sono i temi che stanno orientando anche le decisioni degli investitori, sono puntati sul voto della Finlandia sul rafforzamento del fondo Salva Stati, fino ad ora limitato a 440 miliardi di euro, ma indiscrezioni parlano della necessità di incrementarlo fino a 3.000 miliardi, questione che probabilmente poi si porrà nelle prossime settimane, mentre domani dovrà esprimersi il ben più atteso Parlamento tedesco. Comunque questo clima positivo stamattina si estende anche al mercato valutario, perché l'euro riconquista 1,36 sul dollaro fino a 1,3666. Una nuova asta del tesoro italiano stamattina è andata a buon fine. Il tesoro ha assegnato 750 milioni di BTP decennali indicizzati all'inflazione dell'area euro e però ha dovuto riconoscere un rendimento lordo annuo ancora in crescita al 4,29%. Grazie Deborah Rosciani per questo sguardo sui mercati e questa mattina della situazione europea e in particolar modo anche sulle divisioni per salvare la Grecia hanno parlato il presidente della BCE Trichet, che ha fatto un intervento più che altro su un quotidiano nazionale, e quello della Commissione Barroso. Sentiamo il servizio. Istituzione europea in soccorso degli stati nazionali, parlano Trichet e Barroso con un obiettivo: compattare l'Unione Europea laddove è più profondo il vuoto sul fronte politico. Più abbottonato il primo, più diretto il secondo, il presidente della BCE e il presidente della Commissione concordano su un fatto: questa è la crisi peggiore che l'Europa abbia mai affrontato. Una crisi che mette a dura prova tutte le strategie, dice Trichet, ma le soluzioni ci sono, incalza Barroso, a patto però di restare uniti, affrontare i problemi e sostenere la moneta moneta unica. Tanto per cominciare, la Grecia è e resterà nell'euro, senza vie di mezzo. Altro passo è l'attuazione di scelte già fatte, per esempio l'aumento del fondo salva stati. Anche gli eurobond sarebbero utili, vantaggiosi, li definisce Barroso, ma solo una volta che l'integrazione avrà fatto passi in avanti. Se vogliamo avere un mercato unico, ribadisce il presidente, i governi non possono fare da soli. Poi Barroso cala l'asso. La Commissione ha adottato ufficialmente la proposta di introdurre un sistema comune di tassazione sulle transazioni finanziarie. Il sistema, se adottato dal 2014, potrà dare un gettito annuo di 55 miliardi. Una prima risposta a chi finora ha accusato l'Europa di eccessiva lentezza di fronte alla crisi. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gravi disagi anche oggi in Grecia a causa della seconda giornata di sciopero dei mezzi di trasporto pubblici. I lavoratori protestano contro la norma che prevede la sospensione provvisoria del personale in eccesso, almeno il 10%, nelle imprese a partecipazione statale e in altri enti statali, mentre i proprietari dei taxi protestano contro la liberalizzazione della loro professione. Novità per gli studi professionali e per 17 ordini dedicate soprattutto ai giovani. È arrivato il via libera all'ipotesi di accordo che sostituisce quello scaduto un anno fa. Sono coinvolti ben 1 milione di lavoratori subordinati e 400.000 tra praticanti e partite IVA, per cui tra l'altro si prevedono aumenti di 87,5 euro al mese. Anna Marino ha chiesto vantaggi e tempi dell'accordo a Gaetano Stella, presidente di Cons Professioni e di Cardi Prof, che ha partecipato alla firma con i sindacati. Tutte e tre le organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti hanno siglato l'accordo, compresa la CGIL, che negli ultimi tempi si era un po' chiamata fuori dalle firme degli accordi contrattuali con le altre due sigle, quindi qui c'è un contratto unitario. Il fatto che poi voglia dare una risposta soprattutto in termini di occupazione giovanile, visto che il contratto studi professionali accoglie soprattutto giovani che escono dalle scuole, si è voluto quindi dare una risposta, un segnale positivo in un momento, diciamo, di crisi del paese, e abbiamo pensato, visto che i problemi della disoccupazione giovanile hanno raggiunto livelli altissimi, e quindi abbiamo introdotto per primi in un contratto collettivo le nuove norme sull'apprendistato nelle sue tre varie forme, compreso il professionalizzante, l'alta formazione e ricerca, e anche un'attenzione particolare al praticantato negli studi professionali, vista l'apertura che c'era stata da parte del governo del ministro Sacconi su questo tema. Quindi una disciplina che verrà poi attuata a breve con un ulteriore accordo tra le parti, che disciplinerà anche questo aspetto della possibilità di svolgere il praticantato nell'apprendistato. I tempi, guardi, io penso che un mese massimo il contratto dovrebbe essere operativo. Riprende GR24 questi temi principali nella nostra scaletta: governo al lavoro sul piano crescita, ma è scontro per il nuovo vertice di Banca Italia. Casini e Bersani si dicono preoccupati. Al governo le critiche dei costruttori: una presa in giro, un piano di sviluppo a costo zero. I costruttori contestano il ministro Matteoli. Unione Europea ancora divisa sul salvataggio di Atene. Per Barroso è la sfida più grande nella storia dell'euro. Ancora nessun accordo per il nuovo governo libico, diviso su petrolio e Islam, e Gheddafi sarebbe protetto dai Tuareg. Riprendiamo con una notizia che è stata lanciata da pochi secondi dalle agenzie. Ricorderete, poco fa Deborah Rosciani ci aveva detto che i mercati attendevano il voto del Parlamento finlandese sul fondo di salvataggio europeo. Bene, il Parlamento ha votato e ha dato il via libera all'ampliamento del fondo di salvataggio europeo, naturalmente per la quota che compete al governo e allo Stato finlandese. Adesso, come dicevo, anticipato poco fa, andiamo in Libia. Gheddafi sarebbe nascosto nella zona di Ghadames, al confine con l'Algeria, protetto dai Tuareg, mentre i suoi figli sarebbero a Sirte, circondata attualmente dai ribelli. Lo sostengono fonti del Consiglio Nazionale di Transizione, ma è sulla formazione del governo che sembra giocarsi la partita più pericolosa. Anche i gruppi islamici dovranno partecipare al nuovo governo della Libia e non permetteranno di restare ai margini della trattativa per la suddivisione dei poteri. L'avvertimento è stato lanciato da uno dei comandanti più potenti dell'opposizione al regime di Gheddafi. La dichiarazione, pubblicata dal Guardian, tale posizione conferma le divisioni per la spartizione degli incarichi che hanno ritardato la formazione del nuovo governo provvisorio in Libia. Il Consiglio Nazionale di Transizione ha infatti deciso di aspettare durare fino alla liberazione totale del paese per dare vita a un nuovo esecutivo. Sul fronte della guerra, Sirte resta nella morsa dei combattenti ribelli, impazienti di mettere le mani sulla città natale di Gheddafi. Il Rais però non si dà per vinto e annuncia ad essere pronto al martirio, ma anche a colpi di coda dell'ultima ora, riservando ai ribelli uno shock inatteso. E questo è il messaggio che Gheddafi ha rilasciato a una radio libica. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'inizio dell'anno 51.600 immigrati extracomunitari sono sbarcati sulle isole Pelagie, quasi tutti a Lampedusa, su un totale di 60.600 sbarchi totali sulle coste italiane nel 2011. I dati sono stati comunicati questa mattina dal sottosegretario all'interno Sonia Vitale nel corso di un'informativa alla Camera. Ha fatto le prime ammissioni il 55enne disoccupato di Cameri in provincia di Novara, arrestato con l'accusa di duplice tentato omicidio perché sospettato di avere sprangato due studenti universitari dopo una lite per un sorpasso domenica scorsa a Milano. Si tratta di dichiarazioni spontanee rese nella tarda serata di ieri negli uffici della squadra mobile di Milano, poco prima di essere accompagnato nel carcere milanese di San Vittore. Parliamo di una stretta sull'andrangheta lombarda, sequestri e arresti di boss nel Bresciano. Sequestri, perquisizioni e arresti. Ha impegnato una cinquantina di agenti della squadra mobile della Questura di Brescia l'operazione antidroga che ha portato in carcere 10 esponenti di spicco del traffico di droga locale, alcuni dei quali pluripregiudicati e ritenuti vicini ai clan dranghettisti Reggini dei Morabito e dei Papalia. In manette anche Pino Mazzaferro, punto di riferimento dell'Andrina di Lumezzane in Valtrompia. Il gruppo criminale importava sulla piazza bresciana, ma non solo, grandi quantitativi di cocaina dal Sud America via Spagna. Dalle indagini sono emersi anche propositi di vendetta da parte di uno degli arrestati nei confronti dei PM antidroga, come ci conferma il capo della squadra mobile di Brescia, Riccardo Tumminia. È emerso questa forte acredine, questo astio da parte di uno degli arrestati nei confronti di alcuni magistrati appartenenti al distretto giudiziario di Brescia, ritenuti responsabili del sequestro preventivo prima, della convalida dopo, di beni patrimoniali di ingente valore economico appartenuti a questo signore. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Amazon presenterà oggi a New York il Kindle Fire, un tablet con sistema operativo Android che si affiancherà al classico lettore di libri digitali Kindle. Amazon, che ha creato un proprio App Store, punta a replicare il successo dei suoi libri elettronici costruendo una piattaforma orientata all'acquisto e al consumo di contenuti digitali. Cerimonia a Taipei sull'isola di Taiwan per l'ingresso di China Airlines in SkyTeam, il 15° membro dell'alleanza guidata da Air France e Delta e di cui fa parte anche Alitalia. China Airlines è la compagnia di bandiera di Taiwan. È fallito il lancio test di un nuovo missile balistico intercontinentale dal cosmodromo russo di Plesetsk. Il problema si è verificato al primo stadio, ma il razzo precipitato a terra non ha causato né vittime né danni. È morto negli Stati Uniti l'inventore del pacemaker. L'impianto è stato fatto per la prima volta nel 1960. I pulled out the wrong resistor out of a box and got a un ingegnere prestato alla medicina che ha salvato milioni di vite. Il nome di Wilson Greatbach ai più non dice molto, ma l'invenzione che lo consacrerà per sempre nella storia, sì. A lui si deve l'invenzione del cuore meccanico, il pacemaker. Ora è il suo cuore ad essersi spento. È morto a Buffalo negli Stati Uniti, aveva 92 anni. Una vita lunga per un uomo che ne ha dedicato gran parte a regalare giorni, mesi, anni in più anche ad altri. Il primo pacemaker venne impiantato su un essere umano nel 1960. Il paziente, 77 anni, visse altri 18 mesi dopo l'intervento. Un'intuizione geniale. Oggi centinaia di migliaia di persone ricevono un pacemaker ogni anno. Wilson Greatbach ha guidato fino all'ultimo l'azienda che porta il suo nome. Gli eredi continueranno a produrre ora le batterie per tanti cuori meccanici, ora che quello del suo inventore si è spento. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo di calcio, di Champions League e potremmo dire anche di buone notizie per il calcio italiano. Ne parliamo con Dario Ceccarelli. Ciao Dario, buongiorno. Sì, eccomi qui, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, perché ho detto parliamo di buone notizie? Perché finalmente le squadre italiane rialzano la testa con una doppietta di grande valore. L'Inter a Mosca batte il CSKA con una 3-2 che scaccia tutti i fantasmi della crisi nerazzurra e Napoli stende in 4 minuti gli spagnoli del Villarreal. Due vittorie finalmente perché nel 2011, pensa un po', le italiane in 13 partite di Champions avevano vinto una volta sola. Insomma, il risultato è buono. Parliamo in modo particolare dell'Inter, giusto? Sì, tra l'altro per l'Inter si può dire che è una vittoria scacciacrisi. In 4 giorni l'Inter ha vinto 2 volte, una volta in campionato e una volta in Champions. Cioè da quando è arrivato Ranieri, 2 vittorie in 4 giorni. Diciamo che chi ben comincia è a metà dell'opera. Quindi potremmo dire l'allenatore sì. In questo caso è stato determinante. Sì, diciamo che ha lucidato il suo stellone adesso con questa vittoria. È stato determinante, soprattutto perché ha dato la scossa. Sentiamo Ranieri dopo la partita. Sono tante le cose che hanno dato soddisfazione. 3 punti in classifica nella Champions. Così abbiamo l'opportunità per riprendere il nostro cammino. Il gioco che la squadra ha espresso nel primo tempo, la sofferenza, l'orgoglio del secondo tempo. Non commentiamo solo le partite di ieri sera, ma parliamo anche di questa sera, perché la Champions League continua e questa sera c'è un evento che per alcuni potrebbe essere addirittura storico. Esageriamo? Sì, esageriamo un pizzico, però nel calcio ci sta. Diciamo, stasera il Milan incontra i cechi del Victoria, avversari non irriducibili, che però possono dare ai rossoneri un singolare primato. Sono infatti a 1998 gol dall'era Berlusconi, cioè dal 1986, quando Berlusconi è diventato presidente del Milan. Con 2 gol raggiungono i 2000. E allora tutti sperano che questa sia l'occasione, anche perché gli avversari non sono granché. Aggiungiamo anche che stasera dovrebbe rientrare Ibrahimovic e questo aiuta. Sentiamo Allegri. Non è una partita semplice, perché è sempre una partita di Champions contro una squadra che ha fatto molto bene nei preliminari e che ha delle buone qualità, sia come squadra che come singoli. È normale che per valorizzare il pareggio di Barcellona dobbiamo iniziare a vincere e quindi bisogna farlo nel migliore dei modi. Quindi vedremo questa sera se quota 2000 viene raggiunta in Champions League oppure tutto è rimandato al campionato. Ma dovrebbe essere una quota raggiunta, poi insomma lo svedese almeno. È vero che in Champions non è sempre brillantissimo, però comunque diciamo che la vetta è vicina. Bene, grazie Dario, buona giornata, buon lavoro. Grazie a te, grazie agli ascoltatori. Adesso parliamo di cinema. Terraferma di Emanuele Crialese, il candidato italiano agli Oscar per il migliore film in lingua non inglese. L'ha stabilito la commissione di selezione istituita all'ANICA. Abbiamo un'ultima notizia che è stata lanciata poco fa dalle agenzie. Ci sarà uno sciopero nazionale di 24 ore lunedì prossimo 3 ottobre nel trasporto pubblico locale. Lo ha indetto l'Unione Sindacale di Base contro il taglio del 70% delle risorse dedicate al settore. Il sindacato ricorda naturalmente che le fasce di garanzia diverse da città a città saranno rispettate. È tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Enrico Paglierini, che assieme alla redazione vi auguro una buona giornata. Grazie anche in regia a Roberto Scaltritti. GR24 torna alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.